Salutiamo Maurizio Caprino, che ringraziamo per essere stato con noi. Lo richiameremo per tutto il mondo multe e non solo. Adesso ci chiamerò anch'io. Prego, favorisca la patente, per favore. Ma non è vero che ne prende così tanto? No, non ne prendo più, perché io vado solo a piedi. Brava. E sto bene, sono felice. Ogni tanto salgo e scendo da un mezzo, poi lo uso anche un po' come allenamento. Sto benissimo. Sai che sono multabili anche i pedoni, però? Ma io, tu, secondo te non mi comporto bene? Una faccia di quella che non. Ma che idee strane gli vengono al GR, va che io lo sistemo. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Put your flags up in the sky. Andiamo in Brasile per i mondiali di calcio, ma facciamo finta di essere allo stadio, perché oggi assisteremo ad un match infuocato, fumatori contro ex fumatori. Ah bene, allora se abbiamo le due formazioni non può mancarci l'arbitro, che per noi sarà anche un po' commentatore. In linea con noi è tornato a trovarci il nostro dottor antifumo, il dottor Roberto Boffi, responsabile della pneumologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Dottor Boffi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ma io sono un arbitro un po' parziale. Comunque lo dichiaro, per cui benissimo. Allora, l'arbitro imparziale ce l'abbiamo, e poi ovviamente ci siete voi, il pubblico, che a differenza di una partita vera potrà, anzi è invitato proprio a mescolarsi con i giocatori dicendo la sua. Quindi se volete tifare, fatelo sostenendo con le vostre storie, i vostri interventi, i vostri beniamini. Siete fumatori e volete dirci perché non volete smettere, chiamateci 800 24 0024. Lo stesso numero verde potete utilizzarlo se invece avete smesso e volete raccontarci cosa vi ha spinto a farlo e come avete fatto a dire basta. Però Deborah, sì. Non possiamo dimenticarci della panchina, no. Perché c'è sempre la panchina. Una scorta. E allora, in panchina mettiamo ad esempio chi sta pensando di fare il grande passo ma è ancora indeciso sul da farsi, chi ci ha provato ed è ricascato, non sa se riprovarci o no, se gettare la spugna oppure ritentare. Dottor Boff, che indicazioni vogliamo dare ai giocatori in panchina? Beh, io dico sempre che la dipendenza dalla nicotina è una delle maggiori dipendenze possibili, per cui io, a parte gli scherzi, sto dalla parte dei fumatori, cerco io e il nostro centro antifumo, chi si occupa di ricerca come me, di comprenderli e di aiutarli in questa non facile partita, appunto. Uno dei modi in cui noi cerchiamo di aiutarli è informarli, diciamo sempre anche ai ragazzi delle scuole, domani ne abbiamo qui all'Istituto Nazionale dei Tumori più di 300, conoscere per decidere. E quindi ci piace fare degli esperimenti scioccanti, ma assolutamente con un fondamento scientifico, per dimostrare la capacità straordinaria che ha il fumo, anche una sola sigaretta, di inquinare più dei motori, ad esempio, perché questo è un alibi che molti fumatori hanno quando ricadono, quando non riescono a smettere. Quindi anche domani faremo un esperimento di questo tipo, in cui confronteremo l'inquinamento di due sigarette contro quello di un camion diesel, e ne vedremo delle belle. Dottor Boffi, lei ha detto, ha sottolineato giustamente, il fumo è un da dipendenza, sì. Ecco, è una dipendenza che però molte persone non sono consapevoli di avere, anche perché spesso chi fuma poco, due o tre sigarette, si dice beh, smetto quando voglio, magari riesco anche a non fumare per un giorno. Come si fa a capire che siamo diventati dipendenti? C'è un test, ne abbiamo parlato tante volte, ma se vogliamo dare delle indicazioni agli ascoltatori che ci stanno seguendo, secondo me può essere anche questa un'occasione per fare informazione. Molto volentieri. Allora, da dire due cose: il fumo, il danno e la dipendenza, no? Allora, per quanto riguarda il danno, io lo dico sempre, lo ribadisco oggi, non esiste una soglia minima. Quello che fa male del fumo attivo, ma anche passivo, non solo quello che assumiamo di fianco a un fumatore, ma anche il cosiddetto fumo terziario, cioè quello che assumiamo entrando in una stanza dove si è fumato. no? Sì. Quindi il fumo che si deposita sugli asciugamani, sugli accappatoi, sui letti, ecco, questo fa male sempre e comunque, quindi non esiste una soglia minima tollerabile. Quello che fa male del fumo attivo e passivo è l'uso, non solo l'abuso. Per quanto riguarda invece la dipendenza, non è così. Il test a cui si riferiva lei, Nicoletta, che si chiama test di Fagerstrom, è un test con 6 semplici domande per far capire quanto uno è diventato dipendente, perché non basta accendere una sigaretta, né tantomeno essere esposto a fumo passivo per un'ora o due per diventare un fumatore. E le due domande principali che vengono richieste in questo test, che valgono 3 punti, per cui se uno risponde alto è già di per sé dimostrazione di elevata dipendenza, sono: quando fumi la prima sigaretta al mattino, se entro 5 minuti dal risveglio, o dopo mezz'ora, o dopo un'ora, o dopo più di un'ora, e quante sigarette fumi nel giorno, se meno di 10, se meno di 20, se meno di 30 o più di 30. Quindi chi fuma tanto e soprattutto fuma tanto al risveglio è un forte dipendente, ha una dipendenza sicuramente anche fisica, non solo psicologica, e quindi è meglio che si rivolga al medico di famiglia o ai centri antifumo per farsi aiutare, altrimenti può avere anche una sindrome di astinenza smettendo di fumare, non indifferente, comunque insomma fare molta fatica, ed è peccato, è inutile far fatica a smettere di fumare quando si è motivati e lo si vuole fare in maniera corretta. La, la, la, la, la. Siete nati fumatori? Perché c'è stato un periodo nella vostra vita in cui non fumavate. Angelica lavora come psicologa in un centro antitumori e da un anno conduce con successo un corso antifumo a cui ci ha costretti tutti a partecipare. Era evidente che alcuni non erano adatti a quel metodo, ma Roberta è addirittura negata. L'unico modo per smettere un vizio è iniziarne un altro. Si chiama legge di compensazione, lo sapevi? Che cosa vi ho detto? Non dovete parlare tra di voi. Voi dovete concentrarvi sul fumo. Sul sapore in bocca del fumo, sulla sensazione fisica del fumo che entra nella gola e va giù nel petto. Adesso fate una bella boccata tutti insieme. Com'è? Cattivo. E allora l'occasione di questo match, come l'abbiamo definito all'inizio della nostra trasmissione, è la giornata mondiale senza tabacco, che come ogni anno viene celebrata il 31 maggio. Il tema di quest'anno è proprio molto cuore e denari, perché è la tassazione dei prodotti del tabacco. L'Organizzazione Mondiale della Sanità invita i paesi ad aumentarla proprio per così rappresentare un deterrente all'uso del fumo. Segnalo, Nicoletta, perché qua mi lampeggia sulla mail, sì, un comunicato stampa del Codacons che è arrivato proprio 2 istanti fa. In occasione della giornata mondiale senza tabacco, che si terrà domani 30 maggio, scusate, prima ho detto 31, questa associazione dei consumatori alle 11 davanti alla sede del Ministero della Salute metterà in atto, dicono, una provocatoria forma di protesta contro le morti causate dal fumo, per richiamare l'attenzione di mass media e istituzioni sull'elevato numero di decessi prodotti dal tabacco. E Codacons parla anche di immobilismo dello Stato di fronte a questa vera e propria strage. E infatti la tassazione dei prodotti del tabacco è, Deborah, una misura volta ad arrestare l'epidemia globale del tabacco, così viene chiamata, e giustamente, dato che i numeri di una vera e propria epidemia, perché conta ogni anno 6 milioni di persone, di cui più di 600.000 non sono fumatori e quindi muoiono per il fumo passivo. E sempre i dati ci dicono che se non saranno attuate politiche efficaci, si prevede che entro il 2030 moriranno ogni anno oltre 8 milioni di fumatori. Per questo, come dicevi tu, l'OMS e i partner invitano i paesi ad aumentare le tasse sul tabacco. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Daniela Galeone, che è dirigente medico del Dipartimento Sanità Pubblica e Innovazione del Ministero della Salute. Buongiorno dottoressa, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Più tasse, più salute. Potrebbe essere questo lo slogan della tassazione dei prodotti del tabacco, uno slogan che tra l'altro ha la conferma della ricerca, no? Sì, questo è un tema molto importante e anche delicato, però in realtà ci sono molti studi che confermano che queste politiche possono essere efficaci. Vengono soprattutto dalla Banca Mondiale, che già nel 1999 ha affermato che un aumento dei prezzi dei prodotti del tabacco è l'intervento più efficace e costo efficiente per ridurre il consumo di tabacco, soprattutto tra i giovani e tra i gruppi a basso reddito. E anche l'OCSE ha effettuato recentemente una raccolta e un'analisi di diversi studi che sostengono che la presenza di fumatori nelle aziende sui posti di lavoro sono una conseguenza di costi più elevati, con perdita di produttività, maggiori malattie, maggiori pause sul lavoro e maggiori incidenti, e quindi è stato stimato un guadagno medio dei fumatori inferiore anche del 4%-8%. Però bisogna fare molta attenzione a non confondere il tema delle tasse con quello dei prezzi finali dei prodotti, perché le tasse sono solo una parte del prezzo che i produttori impongono sulle sigarette, che possono in qualche modo neutralizzare l'effetto di una tassazione anche elevata, perché i produttori possono rinunciare in qualche periodo a una parte dei guadagni mantenendo quindi dei prezzi più bassi. Dottoressa Galone, però un po' come funziona per i carburanti, la componente delle accise sul prezzo finale appunto della sigaretta è piuttosto elevato. Ci sarebbe dovuto essere un aumento il primo maggio che è stato procrastinato al primo agosto. Nel nostro paese la tassazione è già abbastanza elevata, forse il problema è dove e come impiegare i soldi derivati da questa tassazione. Una scelta che so che lei suggerisce dovrebbe essere condivisa dal Ministero della Salute e da quello dell'Economia. È veramente un po' un abbinato a cuore e denari molto efficace, anche questa infatti. Dottoressa Galeone. Sì, diciamo, in Italia, come dicevo, la tassazione è già elevata. Noi abbiamo una tassazione che complessivamente rappresenta il 75% del prezzo finale delle sigarette e anche dei tabacchi trinciati, quelli che vengono utilizzate per le sigarette arrotolate, non per i sigari e per i sigarette. Però ovviamente le entrate che lo Stato incassa per prodotti del tabacco non sono destinate poi né in parte né complessivamente a misure di promozione, prevenzione o interventi per la salute. Questo potrebbe essere una prospettiva per il futuro, ma sulla quale ancora non c'è nessuna concretezza nel nostro paese, cioè. Azione propositiva. In alcuni paesi è stato fatto, alcuni hanno ottenuto anche dei buoni risultati, ma non è ancora previsto a livello nazionale. Tenga conto che soltanto lo 0,1% delle entrate fiscali dei prodotti del tabacco, che sono complessivamente rappresentano 13,5 milioni di euro, corrisponde a quanto annualmente viene destinato al Ministero della Salute, al cosiddetto Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che è una struttura che opera presso il Ministero e che finanzia invece programmi di prevenzione su tutte le malattie infettive, le malattie croniche e su altri fattori di rischio, quindi non solo del tabacco. E questa quota rappresenta lo 0,1% delle entrate fiscali dei prodotti del tabacco e non proviene dalle entrate fiscali dei prodotti del tabacco. Dottoressa, il Parlamento europeo ha approvato una direttiva unionale riveduta sui prodotti del tabacco. Il nuovo strumento legislativo rafforza le regole sulle modalità di fabbricazione, produzione e anche presentazione dei prodotti del tabacco nell'Unione europea e introduce regole per alcuni prodotti a base di tabacco. Perché la Commissione ha deciso di rivedere le norme? Ci sono delle novità che vuole segnalarci? Sì, ci sono delle novità importanti. Innanzitutto la Commissione ha deciso di rivedere le norme sulla base anche un po' delle caratteristiche del mercato, sulla preoccupazione dell'azione dell'industria, soprattutto nei confronti dei giovani e nei confronti delle donne, e sulla dimostrazione anche che alcuni interventi sono efficaci per ridurre l'attrattività dei prodotti del tabacco. Tant'è vero che uno degli effetti che ci saranno sarà l'obbligatorietà in tutti i paesi europei. Sì. Adesso la norma era volontaria, di associare alle avvertenze sulla salute, cioè alle informazioni sui danni della salute delle sigarette e degli altri prodotti del tabacco. Sì, quelle scritte che ci sono, sì, le scritte. Ma associare alle scritte anche delle immagini che mettono proprio in evidenza con crudezza anche di linguaggio comunicativo. Tipo il polmone completamente affumicato, sì, no? Saranno una serie di immagini da associare a, e questo per noi ad esempio in Italia è una norma nuova che sarà introdotta solo con questa con l'entrata in vigore di questa direttiva, che è stata appena pubblicata dal 29 aprile 2014 e che ha richiesto circa un anno e mezzo di lavoro, di negoziazione a livello di comunità europea per approvarla. E poi ci sono anche altri provvedimenti, per esempio da noi non sarà più possibile vendere le sigarette in pacchetti da 10, ma a partire dai pacchetti da 20, quindi anche sempre questo in relazione all'aspetto economico, sì. E poi anche sono state date delle indicazioni sulle dimensioni e sulle caratteristiche dei pacchetti per evitare la circolazione a livello europeo di pacchetti tipo a forma di rossetto, a forma di profumo, con particolarmente appealing per le donne e per i giovani, che sono diciamo l'obiettivo di riferimento dell'industria in questo periodo. A parte che non fumo, ma non li avevo mai visti questi pacchetti. Che ti è capitato, Nicoletta? Non ho fatto caso. Ed effettivamente sono molto gradevoli. Sì, perché lo sappiamo che anche l'occhio vuole la sua parte. Certo. Dottoressa Galeone, questa direttiva europea, che lei ci ha spiegato molto bene fino a questo momento, interviene anche sul tema della sigaretta elettronica, di cui poi parleremo nel corso della nostra trasmissione? Sì, introduce una prima regolamentazione a livello europeo delle sigarette elettroniche. Abbiamo perso la dottoressa. Avevamo paura di averla persa, dottoressa. Ci dovrebbe più bello ribadire un po' il concetto, perché l'abbiamo persa per un attimo. Sulla direttiva si introduce una regolamentazione anche sulla sigaretta elettronica, in particolare sulle sigarette elettroniche che contengono nicotina, perché sono quelle più assimilabili ai prodotti del tabacco. Allora, dottoressa Galeone, prima di salutarla, restiamo in Europa. Nella lotta al tabagismo, che cosa ha da insegnare l'Italia agli altri paesi e da chi invece dovrebbe, secondo lei, prendere un esempio? Ma da insegnare abbiamo già insegnato, nel senso che noi siamo stati il primo paese, grande paese europeo, noi siamo un paese con 60 milioni di abitanti, ad introdurre una norma efficace sul divieto di fumo, la legge del 2003 che poi è entrata in vigore nel 2005 e che ha costituito davvero un esempio per tantissimi paesi dell'Unione Europea che hanno poi preso ispirazione dalla nostra normativa. E poi abbiamo fatto progressi tipo l'introduzione del divieto di vendita ai minori di 18 anni, una introduzione del divieto di fumo nelle scuole anche per un aspetto fortemente educativo, anche negli spazi all'esterno delle scuole. Abbiamo poi degli esempi di particolari, di iniziative a livello locale, come ad esempio in Veneto, a Bibione, abbiamo ormai la prima spiaggia europea completamente libera dal fumo. Che se è tra l'altro un bene per lo schifo che c'è sulla spiaggia ogni tanto di mozziconi, che veramente io odio. Il nostro arbitro, l'abbiamo chiamato così, arbitro commentatore, il dottor Boffi, che è in linea con noi. Sono qui con costume da bagno, ecco, sulle spiagge. Sulle spiagge lei ha lavorato parecchio, non sì, come bagnino quando era ragazzo. Col dottor Codognotto, col sindaco di Bibione, ci sono lì oggi, c'è un convegno a Bibione, abbiamo collaborato con loro, con l'OMS, per implementare queste loro prime iniziative che per me sono splendide. Noi abbiamo supportato quei dati scientifici con le misurazioni delle polveri fini e ultrafini, dimostrando quanto ci sia il problema del fumo passivo stando sotto vento un fumatore anche in spiaggia, per cui i miei complimenti assolutamente al sindaco di Bibione per questa straordinaria iniziativa che va avanti. Intanto, a proposito di iniziative locali, qua questa mattina la stampa si dedica ampiamente nella cronaca di Milano all'iniziativa dell'assessore alla salute per Francesco Maiorino, che sta mettendo in campo una serie appunto di iniziative per implementare il divieto di fumo nelle scuole di ogni ordine e grado. Già su Milano c'è da parte del comune dal 2012 il divieto di in tutti i parchi milanesi di fumo all'interno delle aree giochi, per cui adesso si intensifica la lotta all'interno della scuola. Questo lo racconta questa mattina a Repubblica. Per quello che riguarda il Corriere invece c'è l'indagine Doxa che racconta come cresca il fumo tra le donne, mentre risulti in calo chi vuole smettere. Di questo parleremo naturalmente nel corso della trasmissione. Intanto la dottoressa Galeone ci ha detto che tra le novità della direttiva europea c'è appunto l'utilizzo delle immagini sui pacchetti. Serviranno secondo voi? 800 24 00 24 e anche come sempre i messaggi al 349 238 6666. Dottoressa Galeone, da chi impariamo? Da chi impariamo? Per esempio potremmo trarre ulteriore ispirazione da alcuni paesi che si sono dati un tempo massimo per diventare completamente liberi dal fumo. Ad esempio l'Irlanda e anche il Regno Unito hanno definito un programma per cui di qui a alcuni anni, non proprio a tempi brevi, ma vogliono diventare completamente un paese libero dal fumo. Impariamo anche dai paesi che hanno inserito il cosiddetto visual ban, cioè hanno eliminato la possibilità di esporre i pacchetti nei tabaccai e nelle rivendite sulla base di uno slogan fuori dalla vista, fuori dalla mente, oppure da quelli che, come anche il Regno Unito, che hanno eliminato i distributori automatici di sigarette. Noi li abbiamo regolamentati, ma sono ancora molto diffusi. Grazie dottoressa Galeone, grazie, è stato davvero un piacere averle in linea. Torni a trovarci. Esatto. Noi adesso buon lavoro soprattutto. Buon lavoro. Grazie. Arrivederci. E noi restiamo con il nostro arbitro, ma commentatore. Sì, ma non sentiamo un ascoltatore prima dei mercati, dai. Sì. Allora, Benedetto da Milano, perché Carlo dalla bello. Provincia della Benedetto, Spezia. Benedetto che ha un motivo molto molto nobile per il quale ha smesso di fumare. Benedetto, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, ex fumatore, credo di poterlo dire, oramai sono 2 anni che non fumo, fumavo circa 50 sigarette al giorno e un giorno, dopo una giornata stressante di lavoro, sono tornato a casa e come norma ho abbracciato le mie figlie. Sì. Non ho sentito il loro odore, il loro profumo, che credo che sia una cosa fantastica. Sì. Sentivo la puzza di fumo dappertutto, mia figlia, la grande, mi ha allontanato e mi ha detto: papà, puzzi di fumo. Da quel momento ho smesso di fumare, non ho più toccato una sigaretta, senza nessun supporto. Le avevo provate tutte, agopunture, elettrostimolazione, sigaretta elettronica, non erano serviti a niente. Mi è bastata quella frase di mia figlia e la sensazione di non sentire più il loro profumo. Ho smesso di fumare, basta, da 50 sigarette a zero. Bravo, in meno di 24 ore. Grazie Benedetto, una bellissima testimonianza. Da 2 anni ha smesso di fumare completamente, può essere considerato un ex fumatore, il dottor Boffi? Sì, la definizione internazionalmente validata di ex fumatore è una persona che è in astinenza, ha smesso di fumare da almeno 1 anno, quindi noi lo diciamo. Bravo. Sempre che comunque ex fumatore lo rimani sempre, ma questo è un merito, non è una condanna, anzi, perché sei comunque uno che sa fumare, quindi non devi giocare mai con la sigaretta, non devi rischiare mai di ricadere provandola, però è assolutamente ormai libero da questa dipendenza. Cuore e denari. Peccato che per Aiden sia un problema, ma bisogna accettare le persone come sono. Che abbia voluto scaricarmi per una sciocchezza come il fumo. Guarda che fumare non è una sciocchezza, è un vizio sporco e disgustoso e ti sta ammazzando. Grazie, mento livido. Davvero, Carrie, dà fastidio a tutte, lo sopportiamo perché ti vogliamo bene. Adesso hai un motivo per smettere fa. Non mi piace che vi mettiate contro di me. Chi si mette contro di te? Fumare fa parte di come sono. Se smetterò, sarà perché l'avrò deciso io e non perché un tipo carino mi ha detto di farlo. E torniamo insieme, oggi parliamo di fumo, in linea con noi il dottor Boffi. Dottor Boffi, in questo breve estratto c'è un errore, non è un vizio fumare, è una dipendenza, direbbe subito lei. Esatto, bravissima, perché non mi piace la parola vizio, perché sembra di voler giudicare le persone che fumano, invece secondo me sono persone che vanno aiutate, se vogliono essere aiutate, comunque come dicevo prima di tutto correttamente informate. Abbiamo sentito e stiamo raccogliendo anche via SMS tante storie dei nostri ascoltatori che ci raccontano perché e come sono riusciti a smettere. In molti riconducono l'interruzione da questa abitudine alla nascita di un bambino, come ha fatto anche l'ascoltatore precedente, che in realtà ha smesso perché non riusciva più a sentire il profumo. Smesso per amore. Esattamente, dei figli. Ho smesso di fumare, racconta Paola, ad ottobre, dopo che mia mamma ha avuto un piccolo infarto. Non ho più comprato sigarette, la sigaretta elettronica tecnica non mi piaceva, è stata dura i primi 20 giorni, ora mentalmente non la cerco più, che dire, fumare mi piaceva ma sono contenta. Poi naturalmente c'è chi sottolinea la questione della tendenza ad ingrassare una volta che si smette, per me è però difficilissimo. Però di questo parleremo, certo. Chi ha smesso e sta ingrassando o chi non smette, è un atteggiamento molto femminile, certo, per la paura di perdere qualche chilo. Attenzione, perché nell'ultima parte della trasmissione vi daremo dei consigli molto molto efficaci. Bruna, l'ascoltatrice di oggi che eleggiamo, l'ascoltatrice di Cuore Denari, sottolinea: quando penso ai fumatori mi viene in mente quelle 1500 euro spese in fumo e quel fumo che va dritto dritto nei polmoni. Susi, leggo solo lei: per me è difficilissimo smettere di fumare, è da 10 anni che non fumo più ma mi perseguita sempre la voglia. Avevo smesso perché non ne avevo più voglia, ma dopo una laringite, ma adesso non so fino a quando riuscirò a non fumare, speriamo che non ceda, sì, perché 10 anni sono duro. Dottor Boffi, perché lei l'ha detto, no? Si rimane comunque fumatori, questo naturalmente non è una cosa negativa, ma è vero, chi smette si sogna di fumare anche, no? Ha dei sogni in cui fuma. Sì, questo perché no, cioè voglio dire, io lo dico sempre ai miei ex fumatori che a volte mi dicono ancora a distanza di anni di sognare di fumare, io dico sempre nei sogni se ne fanno di ogni, no? Si sogna magari anche le malattie o le morte dei nostri cari, questo non significa desiderare che avvengano, il sogno serve per esorcizzare le nostre paure, quindi va bene, ecco, l'importante è non abbassare la guardia, ecco, è questo che mi preoccupa e questo sento che spesso capita a chi ricade, cioè sottovalutare l'importanza che deve rivestire nella nostra vita smettere di fumare. Ricordiamo che guadagnare salute, no? Si parlava prima di soldi, sì, di più di 1500 euro all'anno smettendo di fumare un pacchetto al giorno, per dire, ma guadagnare salute vuol dire anche guadagnare 12 anni di vita media, è un'epidemia, come avete detto voi, dovuta al fatto che il fumatore ha una sopravvivenza, un'aspettativa di vita inferiore di 12 anni, quindi non è uno scherzo. E poi è il discorso che facciamo sempre ai giovani, ai sani, cioè la qualità della vita, cioè il fumatore tende, certo, ad ammalarsi di più e avere meno possibilità di fare, ad esempio di coltivare i suoi hobby come lo sport, come l'attività fisica. Ecco, oggi è una puntata che vuole essere proprio dedicata a chi ha smesso, a chi ha trovato delle sostituzioni, delle alternative, come ad esempio chi ha smesso le bionde per utilizzare la sigaretta elettronica, a chi ci è ricaduto, a chi pensa di ricaderci. A proposito dello svapo, appunto, come ricordava Nicoletta, negli ultimi anni sono stati in tanti a sceglierlo come abitudine, come strategia per smettere con le bionde, ma anche come lavoro. Le sigarette elettroniche peraltro sono state per certi versi una moda, in parte lo sono ancora, ma addirittura la sigaretta elettronica è finita nel paniere utilizzato dall'Istat per misurare l'inflazione, quindi sono un indicatore importante, Nicoletta, anche dei nostri consumi. Con chi parliamo di tutto questo? Allora parliamo con Cosimo Colasanto. Ciao Cosimo. Cosimo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno ai radioascoltatori. E giornalista di Salute 24 e autore del primo libro sul fumo elettronico, come smettere di fumare con la sigaretta elettronica, Editori Internazionali Riuniti, un libro di cui abbiamo già parlato più volte. Cosimo, ti tocca scrivere il secondo. A questo punto sì, anche se la situazione è sempre in evoluzione, quindi è difficile fare un punto della situazione, è un po' ingarbugliata. Allora, prima di fare il punto sulla sigaretta elettronica, che dici se andiamo a sentire, certo, Carlo che ci chiama dalla provincia della Spezia? Ha bisogno del nostro aiuto, Carlo, del nostro sostegno e di una buona motivazione. Carlo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, ho sentito che per molti è facile smettere di fumare. Io ho 65 anni e ho cominciato da ragazzo. È vero che poi nel tempo ho cercato di smettere. Allora era di moda delle graffette da mettere al lobo qui dell'orecchio e smisi per circa un anno e le posso dire che stavo molto molto bene, sentivo il sapore dell'acqua, era un altro modo di vita, vivere la vita al sole, non con il tempo un pochino, sì, ombreggiato dalle nuvole, è strano a dirsi, Poi cos'è successo? È successo, ho fumato una sigaretta e di lì ho rifumato tutte quelle che non avevo fumato in un anno. È brutto questo. E io, se sono intervenuto, era per dare la mia testimonianza ai ragazzi di non fumare, perché è vero che si sente grandi, però è anche vero che poi, giunti alla mia età, manca il fiato, proprio manca respiro, manca il fiato, uno si sente morire. Altera il gusto. Grazie Carlo. Grazie. Se Carlo volesse smettere, dottor Boffi, faccia un po' la donna di cuore. Facciamo, lei di può polmoni, di cuore e polmoni. Possiamo proporre e promettere il suo aiuto? Ma volentieri. Per cui, se Carlo o gli ascoltatori che naturalmente chiameranno e ci faranno un po' questa dichiarazione, voglio smettere ma non ce la faccio, possiamo affidarle al dottor Boffi, che un po' come avevamo fatto con il nostro reality per smettere di fumare tanti anni fa, ecco, possiamo magari aiutare gli ascoltatori a decidere e fare questo passo, soprattutto con il sostegno di un centro antifumo. Vorrei ritornare con Cosimo Colasanto alla questione della sigaretta elettronica, perché anche in questo caso ci tocca sollevare il tema della tassazione. Cosimo, ricordiamo che la possibilità di introdurre una cosiddetta maxi tassa del 58% sul fumo elettronico aveva messo molto in agitazione il settore, poi l'ipotesi si è allontanata, ora è di nuovo in vista. Cosa possono star tranquilli i titolari dei negozi di sigarette elettroniche, o devono ancora stare in agitazione per questa eventualità? Beh, la situazione in realtà non si è ancora del tutto chiarita, nel senso, l'ultima trasmissione, puntata in cui ci siamo sentiti, appunto c'era questa spada di Damocle della supertassa del 58,5%, che poi si andava ad aggiungere a quella dell'IVA. C'è stata un'ordinanza del TAR che sostanzialmente ha dato ragione alle aziende che hanno fatto proposto ricorso, e sostanzialmente ha detto che quella tassa le avrebbe danneggiate, e in realtà era una tassa che si abbatteva anche su prodotti che non avevano niente a che fare con la nicotina, come i caricabatteria, i laccetti, i porta sigaretta elettronica. Quindi in realtà quella tassa è in questo momento sospesa per quanto riguarda le aziende che hanno fatto ricorso, però si profila, voci circola, un nuovo tentativo di inserire un altro tipo di equiparazione rispetto alle sigarette normali, cioè quella, una specie di tassa sul piacere, nel senso che verrà equiparato, verrà prodotto un'equivalenza tra, potrebbe questa ipotesi, tra la nicotina delle sigarette convenzionali, i fumatori di sigle chiamano le catramose per le sostanze chimiche che contengono, e la sigaretta elettronica, e in base a questo appunto si avrà una tassazione ovviamente soltanto con i liquidi con nicotina. È un'ipotesi che appunto circola in questi giorni, e che ovviamente spaventa tanto gli operatori, non solo i produttori ma anche i negozianti, che tra l'altro ormai sono stati in una certa misura decimati da tutte queste notizie. Erano 5.000 negozi all'inizio del boom, adesso c'è stato uno sboom e siamo, secondo Unioncamere, a circa 1.500 rivendite. E Cosimo, Italia, guarda, lo sa molto bene un imprenditore del settore, che salutiamo e a cui facciamo commentare tutto questo subito dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Però Nicoletta, lo salutiamo, Stefano Pozzi, amministratore delegato di Smokies, è un produttore e distributore lombardo di sigarette elettroniche. Pozzi, buongiorno. Buongiorno a voi. Le chiedo solo un minuto di pazienza e le chiedo di ascoltare con noi cosa sta succedendo sulle strade italiane. Peraltro, tra oggi e domani, scioperi a go-go su treni e mezzi pubblici. Sentiamo un po'. Cuore e denari. Avevamo introdotto poco fa Stefano Pozzi, amministratore delegato di Smokies, produttore e distributore lombardo di sigarette elettroniche, che in quest'ultimo anno ha vissuto sulla sua pelle tutta l'incertezza legislativa, no? Sulla disciplina e la regolamentazione del settore. Pozzi, la sua idea nasce 5 anni fa, acquista una sigaretta elettronica su un sito internet e pensa, sai che ti dico, Pozzi? Pozzi? E niente, si è distratto, sta chiacchierando allora, con qualcun altro. Se Stefano Pozzi chiacchiera, se andiamo a sentire Marco che ci chiama dalla provincia di Alessandria. Buongiorno Marco, benvenuto. Sì, buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno a tutti. Di che squadra è lei? Fumatore, ex fumatore, in panchina? No. Dove lo mettiamo, Marco? Io fortunatamente appartengo sicuramente alla famiglia degli ex fumatori. E come ex fumatore sono anche uno di quei più cattivi in assoluto, perché non le posso proprio più vedere le sigarette. Si dice non c'è peggior schiavista di un liberto. Molti ex fumatori, infatti, vero dottor Boffi? Sono molto diventano intransigentissimi. Ma non i nostri, no, no. Quando uno smette bene, ben contento, convinto, non sta male, viene aiutato, viene coccolato, viene premiato. Perché no? Perché deve diventare un rompiscatole? Non mi piace. Marco, comunque, sì. La sua storia è divertente. Perché? Sì, è simpatica, perché io ho smesso nell'82, quindi sono già parecchi anni. Se fumavo tantissime sigarette, anche perché un po' c'ero portato per via del lavoro, lavoravo giorno e notte in servizio di polizia, quindi lo stress, la vita un po', diciamo, un po' stressante, no? Sì. E quindi portavo a fumare tanto. E fumavo quei 2-3 pacchetti di sigarette sicuramente tutti i sacrosanti giorni. 2-3? Sì, sì, 2-3 pacchetti di sigarette al giorno. E come ha fatto a smettere? Ci ha messo lo zampino? Ma mio papà avevano diagnosticato un po' di ipertensione, non c'entra niente con le sigarette, però gli avevano suggerito di smettere o comunque di ridurre il fumo, e si era ripromesso di non fumare più in casa. Così io, per dargli una mano, ho detto va bene, smetto anch'io. Questa frase è stata sentita da mia suocera, che simpaticamente, con tutto l'amore che io le ho voluto, per carità, però non c'era quel buon rapporto, diciamo, io non ero proprio il suo pupillo, se vogliamo dirla così, no? E così disse una frase a pranzo che mi fece scattare proprio quella molla interna. Mi disse chiaramente: no, tu non ce la fai a smettere di fumare, perché tu non hai il carattere. E lo disse talmente. E Marco, a sentirsi dire così, sai che c'è, cara suocerina. Insomma, Marco ha smesso quasi per far dispetto alla suocera, l'ascoltatore di prima ha smesso invece per amore, perché non sentiva più il profumo delle sue bambine. Marco, complimenti, viva la suocera. Comunque, allora, in qualche maniera, però, insomma, la sfera affettiva è sempre molto rilevante nel bene e nel male. E c'è chi invece passa la sigaretta elettronica. Esatto. Pozzi, ci sente adesso? Sì, sì, sono qui. Prima si era distratto. Ci senti? Sentivo pubblicità, sinceramente. Era terminata, non importa. Senta, allora, Smookies, produttore e distributore lombardo di sigarette elettroniche. Lei ci pensa a questa idea 5 anni fa, acquista una sigaretta elettronica su un sito internet e poi dice: sai che c'è, quasi quasi qua questo trend, io lo cavalco e ne faccio un'attività professionale, che è andata molto bene. Cosa è successo poi? Sì, diciamo che, come ha detto giustamente, anche per quanto mi riguarda, la nascita di una figlia mi ha un po' costretto, insomma, a cercare alternative. Ah. Ho acquistato la prima sigaretta elettronica, insomma, mia moglie era un po' più contenta e mi ha appassionato talmente tanto che ho deciso di, nei ritagli liberi che mi concedeva il mio lavoro, di creare una vendita online. Una vendita online è diventato un negozio, da un negozio abbiamo aperto 4 negozi e via, fino ad arrivare a una catena nazionale di circa 350 negozi. Capito. Molti dei quali in questo momento purtroppo hanno chiuso. Quanti? Quanti, Pozzi, su 300 punti vendita? Ne serviamo circa 200, quindi quasi metà purtroppo hanno desistito per tutti i problemi che sono successi. Poi in seguito abbiamo aperto anche in altri paesi, come Olanda, Spagna, Marocco, e devo dire che purtroppo il problema ci insegue un po' in tutto il mondo, nel senso che dopo un determinato periodo comincia la pubblicità negativa, quella che chiamiamo la bad press, ovvero si comincia sui giornali a mettere in dubbio, insomma, l'efficacia, a mettere in dubbio soprattutto i liquidi, a dire che potrebbero fare addirittura più male. Allora, lei parla, dottor Pozzi, dottor Pozzi, lei parla di pubblicità negativa. Noi abbiamo il dottor Boffi in linea, e oltre a Cosimo Colasanto, che è un giornalista che ho incontrato, ecco, che ha scritto ed è molto aggiornato anche anche sulle ultime ricerche che sono state fatte sul fumo elettronico. Dottor Boffi, la sigaretta elettronica è stato oggetto di numerosi studi, poi sembrava che l'interesse calasse e adesso sono ripresi. Che cosa ha da dirci riguardo a quella che il dottor Pozzi dice una pubblicità negativa? Beh, è un fenomeno complesso che ha tante sfaccettature sociali, politiche e anche economiche. È un mercato sicuramente che fa molto gola anche alle multinazionali del tabacco. Nel momento in cui, ed è già accaduto e sta continuando ad accadere, molti di questi prodotti vengono acquistati dalle multinazionali del tabacco e vanno a finire quindi inevitabilmente in tabaccheria, non possono che essere da noi sconsigliate. Per quanto riguarda comunque l'efficacia per la cessazione del fumo, molti studi ancora non sono stati fatti, studi solidi, per cui direi che siamo in cauta attesa e sicuramente perlomeno per una certa categoria di fumatori, i cosiddetti hard smokers, cioè quelli che non sono intenzionati a smettere ma quantomeno a danneggiarsi meno, sicuramente potrebbero avere una loro efficacia. Quello che noi come Istituto dei Tumori abbiamo invece studiato in questi ultimi mesi è la potenziale riduzione dell'inquinamento ambientale da sigaretta elettronica confrontandola con quella della sigaretta normale. Bene, abbiamo già pubblicato che almeno in termini di polveri fini ultrafini siamo da 20 a 200 volte meno come potere inquinante, quindi ci vogliono 200 sigarette elettroniche per emettere in una stanza la quantità di polveri ultrafini liberate da una sola sigaretta normale. È pazzesco, sai che uno no, immaginatela, 200 sigarette elettroniche per... Certo, infatti. Quindi diciamo che a parte il fatto che non si vedrebbe perché fanno molto vapore con le sigarette elettroniche, quindi al cinema... Però dottor Boffi, insomma, per rispondere anche ai nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo, se uno vuole smettere non ce la fa e si affida alla sigaretta elettronica, insomma un po' di guadagno ce l'ha, perché tra sigaretta elettronica e bionda, gli studi o non studi, che poi di studi ne sono stati fatti comunque, no? Non c'è anche... dubbio, Nicoletta, però lei è una giornalista e lavora in una radio seria, allora vuoi essere un prodotto serio, accetti di essere venduto in farmacia, non in tabaccheria. Questo è il mio punto di vista da medico. Uh-huh. Nel momento in cui si sceglie di andare dall'altra parte della trincea, mi spiace usare dei termini guerrieri, ma questa è una battaglia, perché se si parla di un miliardo di morti in questo secolo. Si parla di morti, certo. Allora, nel momento in cui viene, a parte il fatto che non penso che al tabaccaio interessi molto di vendere, di spiegare l'utilità e anche i rischi di usare male la sigaretta elettronica, ma nel momento in cui si decide di fare un prodotto confezionato per poi essere venduto in tabaccheria, è chiaro che l'obiettivo sarà per quello di creare più dipendenza, non di aiutare le persone a smettere. Stefano Pozzi, un minuto per lei per una replica a questa considerazione del dottor Boffi. Sì, assolutamente, ha detto delle cose molto intelligenti, lo studio sulle polveri sottili, insomma il second hand smoke, che dimostra che 200 volte contro uno, insomma, parla da sé. Quello che ho sempre fatto io, ho chiesto sempre anche ai miei competitor, amici, concorrenti, e di non vantare la sigaretta elettronica come un metodo per smettere di fumare, perché come dice il dottore in questo caso dovrebbe essere disciplinato come un presidio medico, quindi è venduto in farmacia. La sigaretta elettronica è un'alternativa al fumo di sigaretta, quindi i 300 milioni di persone che siamo riusciti in questi anni a convertire la sigaretta elettronica sono un'occasione, un'ottima occasione. Certo. Non inalano più migliaia e migliaia di... Pozzi, 5 secondi, oggi la vostra maggiore preoccupazione per la vostra attività di impresa qual è? La nostra maggiore preoccupazione è questa tassa, abbiamo fatto l'ennesimo ricorso al TAR, sì. Benissimo. Continuiamo a combattere. Vi seguiremo ancora allora. Cuore e denari. Mi stai via! Ho capito, salgo! No, aspetta! Ma come aspetta? Sei pronta per il test del corpo? Test del corpo non siamo mai pronti, veramente, e no! Invece lo facciamo! E allora lo facciamo! Ora puoi salire! Oh, ma sei felicissima! Salgo? Sì! Oh! Lì per te! Prego! Fatto! Oh! Però, sei sovrappeso di brutto! Ma che... Dall'ultima puntata hai preso... Ma quando mai? Ma saranno le scarpe, ma non facciamo... Ma quali scarpe? Ma non diciamo cretinate. Beh, fai vedere. Adesso? Ah, beh, erano Eccoli lì, molti, dottor Boffi, non smettono o se smettono hanno una terribile paura di ingrassare. Ma non sempre non è sempre così. No, assolutamente. Uno studio dimostra che il 90% dei fumatori che smettono bene, con un immediato adeguamento dello stile di vita, non solo alimentare ma anche del moto, non ingrassano più di 2 kg, quindi assolutamente è un mito da sfatare. È vero che è un rischio, perché la nicotina è anoressizzante, quindi accelera un po' il transito dei cibi a livello dei tessuti adiposi e toglie un po' l'appetito, però non è una cosa che va assolutamente, diciamo, è un mito che va esorcizzato. Allora, e il dottor Massimo Gualersi, che è in linea con noi, cardiologo della Fondazione Dognocchi di Parma, l'Università di Parma, esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica, ma soprattutto grande amico di Cuore Denari. Buongiorno. Buongiorno dottore. Dottor Gualersi. Ci dirà tra poco, perché vogliamo ancora restare sulla sigaretta elettronica, che cosa bisogna fare, non fare, se ci sono degli alimenti sì, degli alimenti no, erbe e tisane. Dottor Gualersi, è così? Sì, quindi c'è qualcosa. C'è qualcosa, quindi state pronti. Mm-hmm. Ma riguardo alla sigaretta elettronica, abbiamo ancora in linea con noi Cosimo Colasanto. Cosimo sì. Colasanto. Abbiamo raccolto prima, Cosimo, le preoccupazioni dei produttori, di coloro che soprattutto hanno letteralmente stravolto anche la propria vita professionale per dedicarsi a questo business. Giustamente ne hanno colto tutte le potenzialità e qua nel giro di qualche mese rischia di saltare un po' tutto, no? Quindi ci puoi sintetizzare quelle che sono le prospettive per questi negozianti in qualche maniera? Quindi facciamo solamente un ragionamento di denari in questo momento, poi andremo anche agli altri aspetti. Certo, guarda Deborah, la vita delle sigarette elettroniche, l'abbiamo detto più volte anche nelle scorse puntate, è stata tribolata dall'inizio, nel senso che c'è stato un grande innamoramento in generale da parte dei consumatori, anche perché, diciamo, anche per questioni di risparmio economico sul consumo quanto costa? Non mi ricordo se nell'altra puntata avevamo dato un'indicazione di spesa, Cosimo. Beh, in questo momento un flacone costerebbe intorno ai 5-6 euro, un flaconcino da 10 millilitri, con le tasse, quelle diciamo che sono state bocciate, si arrivava a molto più del doppio, e adesso con anche queste nuove ipotesi comunque saremo sui 10 euro a flaconcino, che dura quanto? Dipende da quanto si svapa? Esatto, dipende dall'uso, dipende dalla frequenza, dipende anche dal dispositivo che si usa per fumare, perché ovviamente hanno potenze diverse, e anche per questo è difficile fare un'equiparazione tra la sigaretta elettronica e la sigaretta convenzionale, quella di tabacco. Quindi insomma adesso aspettiamo di capire un po' l'evoluzione della questione sulla tassazione, one. Però una buona notizia, dai, daccela. Perché l'ordinanza del TAR del Lazio fa riferimento alla Corte Costituzionale, cioè nel senso che tutta quanta la disciplina sulla tassazione appunto della sigaretta elettronica sarà rinviata alla Corte Costituzionale, che dovrà decidere se effettivamente principi che riguardano il libero mercato questa tassazione sia effettivamente applicabile. Però insomma una sorta di spada di Damocle su questi rivenditori al momento c'è, realisticamente parlando, Cosimo. Da un certo punto di vista non è una situazione molto semplice, però dobbiamo anche dire, questa è una notizia di oggi, che gli esperti internazionali si stanno molto dando da fare per cercare di far capire che, usata per quanto, come diceva il dottor Boffi, per quelli che non riescono proprio a smettere e che fumano tanto, riduce il rischio. Hanno scritto una lettera all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è stata diffusa proprio oggi, in cui dicono che equipararla alle sigarette di tabacco non riesce ad evitare, non permetterà di evitare l'alto numero di morti che invece la sigaretta elettronica in un certo senso può ridurre. Sintetizzo una conclusione: probabilmente nessuno metterà in discussione la loro operatività, la loro resistenza, sicuramente lo Stato cercherà di trarre massimo vantaggio dal loro lavoro dal punto di vista fiscale. Grazie a Cosimo Colasanto per essere stato con Cosimo. Noi. Ciao Cosimo, alla prossima. Grazie a voi, arrivederci. Buona giornata. Allora, dottor Boffi, riassumendo, diamo delle indicazioni. Sigaretta elettronica, sì, ma... Che sospirone. Perché io ormai lo conosco, il dottor Boffi, abbiamo... No, ho paura adesso di parlare della sigaretta elettronica, perché veramente ci sono delle persone che hanno smesso di fumare, perché ricordiamo che la sigaretta elettronica è un vapore, non è un fumo, E il fatto, quello che mi sembra che stia accadendo è soprattutto che sta diventando un'occasione persa, cioè rischia di diventare una grossa possibilità che avevamo per aiutare i fumatori, siamo 11 milioni in Italia, quindi prendo atto che non tutti vogliono, non tutti riescono a smettere di fumare, a perlomeno a danneggiarsi molto, molto meno. Sì. E nel momento in cui invece questo fenomeno viene assorbito nelle dinamiche delle multinazionali del tabacco, allora inevitabilmente io non posso, non voglio, io e chi lavora come me nella parte della salute non può stare da quella parte. Certo, lì, però dottor Boffi, io ho bisogno da lei un'indicazione per chi volesse utilizzare la sigaretta elettronica in modo intelligente, esatto, per certo. Passare dalla bionda alla cessazione completa. Io quello che uso, non ci sono ancora degli schemi, degli algoritmi validati, ma quello che consiglio allo svapatore è di utilizzarla come noi usiamo già i cerotti o le gomme a base di nicotina, quindi corrispondere a, diciamo, assumere una quantità di nicotina tramite le cartucce corrispondente al numero di sigarette che si decide di eliminare e ridurre di un terzo mensilmente, quindi cercando di non innamorarsi della sigaretta elettronica, di usarla come un presidio per danneggiarsi meno e possibilmente non diventando per sempre dipendenti, quindi ridurre il dosaggio della nicotina nella cartuccia fino a poi arrivare magari dopo ogni mese di porsi il dubbio se si riesce a ridurre o meno, se la voglia di fumare, di svapare è ridotta, ridurre di un terzo, poi un terzo, fino a poi passare alle cartucce senza nicotina. Come è riuscito a fare qualche ascoltatore, io ho il presidio di Facebook in questo momento e c'è chi effettivamente ha fatto questo percorso graduale fino ad eliminare del tutto la nicotina. Sì, te lo raccontano in tanti che sono passati, come l'ascoltatore che adesso me lo sono perso, dalla bionda alla mora elettronica, poi ha lasciato anche quelle. Insomma, abbiamo Rino da Milano. Buongiorno Rino, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. In che squadra è lei? Fumatore o ex fumatore? Un po' ballerino, Rino. Sono un po' una voce fuori campo. Allora, in panchina la metto, ecco. Rino. Vuole stare in panchina? Dai. Va bene, mi metto in panchina. Cioè, praticamente io ho fumato dall'età di 17 anni, ma non esageratamente, 10-15 sigarette al giorno, ma sempre. Sì. Poi a un certo punto ho detto voglio provare a smettere di fumare, perché chi non riesce io voglio provare, senza cerotti, senza training, senza niente, ho smesso di fumare. Quando ho smesso di fumare ho detto ma io riesco a smettere di fumare, quindi posso anche riprendere a fumare quando voglio. Ma no, attenzione, no, aspetta, lo so che uno dice vabbè ci sei ricascato, però io l'ho fatto, ho deciso quando riprendere e l'ho ripreso, so che sarà oggetto di critiche e tutto, no, queste cose qua. Ma no, ma noi adesso, non siamo esempio, giudicanti. No, adesso per esempio dico questa cosa l'ho fatta 2-3 volte per sperimentare se effettivamente si può smettere di fumare senza niente e oppure no. Adesso per esempio io ho smesso l'ultima volta di fumare, ho detto no basta, non smetto, per due anni e mezzo ho smesso di fumare. E adesso fumo? Adesso praticamente per conto mio adesso dico, il fumare poco è un po' un piacere della vita come anche il mangiare, i gusti e così via. Io riesco lei riesce a tenersela così. Senta, il dottor Boffi non so se è proprio d'accordo, anche non so il dottor Gualerzi che tra l'altro fa il cardiologo, sentiamo l'aiuto arbitro, dottor Gualerzi, prima di andare a dire come non si ingrassa smettendo di fumare, che dice? Beh, sicuramente avere il controllo delle proprie pulsioni è un elemento favorevole, questo è quello che un po' sta dicendo il radioascoltatore. Dal punto di vista cardiovascolare è stato dimostrato che anche 2 o 3 sigarette al giorno aumentano il rischio cardiovascolare, quindi questa indifferenza dovrebbe tramutarsi in proprio in indifferenza tale da non dover fumare neanche quelle 2 o 3. In questo dobbiamo essere un po' intransigenti. Sicuramente è meglio sapersi regolare e fare fumare 2 o 3 sigarette piuttosto che fumare 20. Questa è la palissiana. Allora, non appena abbiamo iniziato la trasmissione, ci ha scritto al nostro indirizzo di posta elettronica cuoredenari@radio24.it Mario Lizza e ci racconta: sono un medico di Pescara e dal 96 collaboro con un'associazione Onlus e Vita e Salute al cosiddetto piano dei 5 giorni. Non ci siamo fatte mancare questa occasione, il dottor Lizza lo abbiamo chiamato. Dottore, buongiorno e benvenuto a Cuore Denari. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. In che cosa consiste questa vostra iniziativa e soprattutto che effetti ha su chi si rivolge a voi? Allora, gli specialisti si chiamano questo tipo di incontri la terapia cognitivo-comportamentale. Sono parole che mettono paura. No, no, no, ne abbiamo parlato tante Nicoletta volte. Carbone me le ha ben inculcate in testa. I nostri ascoltatori la conoscono bene. Rapidamente, dottor Lizza, ci dica come... incontri di gruppo di 5 serate, lunedì al venerdì, massimo 2 ore ogni gruppo. La cosa importante è che, a parte parlare dei danni del fumo, che è ovvio e scontato per iniziare, che si stabilisca una relazione fra i partecipanti. Mm-hmm. E questo mette in moto una bella dinamica di gruppo. Il risultato, qual è l'obiettivo di questi corsi? Aiutare le persone a modificare il proprio stile di vita, a cominciare dall'attività fisica e l'alimentazione. Qual è la risposta? La risposta è che al venerdì sera 9 persone su 10 hanno smesso di fumare. E nel tempo? Fino al mercoledì c'è ancora abbastanza malessere, ma in 3 giorni con 2 litri di acqua, molta idratazione, la nicotina viene eliminata. Giovedì si ragiona meglio, venerdì si fa grande festa perché 9 su 10 hanno smesso di fumare. Noi un bellissimo esperimento, mi sembra da segnalare. Ce ne saranno sicuramente di simili anche in Italia. Ricordiamo comunque anche tutti i centri antifumo di cui il dottor Boffi è appunto responsabile, di quello dell'Istituto dei Tumori, dove domani avverranno grandi cose, che ce le racconterà tra poco. Ma dottor Gualerzi, rapidamente, alimenti sì, alimenti no, tisane, erbe per non accumulare chili per chi spegne la sigaretta. Sì, diciamo che come sempre un'alimentazione equilibrata aiuta a non aumentare troppo, e sicuramente qualche chilo quando si smette di fumare, soprattutto per i fumatori che fumano più di 20 sigarette, ci lo si può aspettare. Alimentarsi bene è la prerogativa, sicuramente quando si smette di fumare si ha anche più tempo, sia per scegliere il cibo sia per mangiare, perché se pensiamo a quanto tempo perdiamo oggi fumando, ci si trova molto più tempo. Diciamo subito che volevo dire solo una cosa, si può anche aumentare di peso perché il fumo inibisce la crescita muscolare, quindi è un magari aumento di peso più fisiologico, quindi non tutti i chili in più sono dannosi, perché se uno pesa di più, perché aumenta un po' anche la massa magra, questi chili non sono dannosi, assolutamente. I cibi sì sono cibi, come diceva adesso il dottore, che contengono molta acqua, quindi la frutta e la verdura. Tenendo anche conto che la frutta e la verdura servono molto per saziare, quindi non sentire il bisogno appunto di fumare. Mentre quando mangiamo carne, ad esempio alcol, ma anche il caffè, il gusto di queste sostanze verrebbe esaltato dalla nicotina e dal fumo, quindi tutto sommato più si mangia carne, più si beve, più si bevono caffè, si beve alcol, più appunto questi richiamano la voglia di fumare, quindi eliminare assolutamente questi alimenti nell'immediato. Visto che amo i centrifugati, vi dico un centrifugato che può essere utile anche per iniziare la giornata. Contiene sedano, quindi dobbiamo mettere in un centrifugato appunto il sedano perché contiene molti liquidi, ma anche molte vitamine, molti antiossidanti che vanno a contrastare gli effetti che sono stati creati dal fumo. La mela, perché abbiamo detto che ha un'azione con il suo acido piruvico che riduce appunto i depositi e la formazione del grasso. L'ananas, perché ha un'azione antinfiammatoria, e sempre lo zenzero, che stimola un pochino il metabolismo. Quindi sedano, mela, ananas e zenzero nel nostro centrifugato. Fantastico. Per quanto riguarda le bevande, vi ricordo che il tè verde ha una duplice azione in questo caso. Un'azione, come diceva appunto il dottore, idratandoci eliminiamo tutti i residui della nicotina, che è una sostanza idrosolubile, quindi più beviamo e più uriniamo, in un certo senso più la eliminiamo. Ma il tè verde, avendo anche un'azione eccitatoria attraverso la teina, può andare a sostituire l'effetto che sulla mente dà la nicotina. Quindi il tè per idratarci, ma anche per stimolare un pochino. Fantastico. E poi il nostro centrifugato. In un minuto il dottor Boffi, un grande appuntamento all'Istituto dei Tumori rivolto ai ragazzi per fare prevenzione. Dottor Boffi, sì. Un'anticipazione breve, ma... Beh, oltre alla gara tra chi inquina di più tra le sigarette e il camion, quest'anno presenteremo dei nostri dati, anche un filmato che abbiamo fatto insieme alle Iene, sul fumo all'aperto in discoteca, perché uno pensa che all'aperto in discoteca, ovviamente già areato l'ambiente, l'aria buona fuori in estate, ci sia meno inquinamento, invece confrontandolo perché si piazzano tutti lì davanti alla porta, per cui si crea un concentrato di fumo che forse è anche peggiore, non lo so, è anche quello che capita fuori dai ristoranti, no? Quindi è sulla falsa riga dello staff. stadio e delle spiagge che abbiamo fatto l'anno scorso, quest'anno attaccheremo, tra virgolette, il fumo passivo outdoor nelle discoteche. Grazie al dottor Boffi, al dottor Gualerzi, a Carmelo Lauricelle in regia, alla parte tecnica, Laura Vanossi, Marco Lombardo, Camilla Tomadini. Grazie anche a noi due, che domani saremo in diretta da Trento per il Festival dell'Economia. Venite con noi, venite a trovarci e buona giornata.